Dimmi i nomi. Dunque, la responsabile di noi ragazzi al campo estivo di tennis quando avevo 15 anni. Il nome? Adesso è famosa, non posso dirtelo. Oh, santo cielo, ok. Ralph, la chiameremo Ralph. Va bene, adesso il secondo nome. Melanie. Mel... Ah, lo sapevo. Ho sempre immaginato... Ma te l'avevo già detto. No, adesso vediamo attraverso quante persone dobbiamo passare per trovare un collegamento tra te e me. No, è impossibile. Ok. Melanie è andata a letto con Heather. Sì. Heather è andata a letto con Brooke. È andata a letto con Brooke. Sì, Brooke è andata a letto con Nina. E io sono andata a letto con Nina, visto? Wow, sì. Perciò 4, 1, 2, 3, 4 sono le persone che collegano te a me. Sembra che sia un mondo folle e piccolissimo. Folle sì, ma non piccolissimo. The Chart, trasmissione di connessioni, cicli, bicicli, improbabili coincidenze e straordinarie commissioni. Ogni 15 giorni alle 17.15 al martedì autogestito. Buonasera. Eccola. Eccoci. Siete all'ascolto di The Chart. Benvenuti a tutti e a tutti. Questo è il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Io sono Clo. Dall'altro lato della scrivania c'è Donna. E siamo qui a festeggiare il nostro primo mese di trasmissione. È vero, la quarta puntata. È la quarta puntata, che per noi significa un mese, visto che andiamo in onda ogni 15 giorni. Vi ricordo che trovate i nostri podcast o sul blog del martedì mfla.noblogs.org oppure sul blog proprio della trasmissione, che è womenchart.wordpress.com, dove trovate pure il form per giocare anche voi alla nostra trasmissione. So che le nostre ascoltatrici ormai affezionate sanno di che gioco si tratta. Per chi non lo sapesse, ci sta ascoltando, lo scoprirà. Quindi sostanzialmente un po' dovete ascoltare almeno uno dei podcast, magari tutti e meglio, meno uno. Almeno uno, per capire un po' come funziona. Quindi insomma potete farla assieme alla vostra coinquilina, piuttosto che vostra sorella dall'altra parte del globo, insomma, o un gruppo di amiche. Non c'è limite sostanzialmente. Dovete entrare in una, diciamo, in una cinquantina di minuti, quindi insomma regolatevi anche con la lunghezza dei brani, le spiegazioni e le connessioni, e poi appunto magari compilate il form, mandateci la notizia di questa chart e insomma quelle che arriveranno che ci piacciono anche a noi, sarà un piacere poi ospitarle in questo spazio. I riferimenti: 0649 1750, che è il numero di Radio Onda Rossa a cui potete chiamare per tutto il pomeriggio. Vi risponde la redazione del martedì femminista e lesbico autogestito. Appunto, hai già citato il nostro blog, insomma poi un po' di social vari ogni tanto ci trovate e potete anche raccontarci e darci anche qualche spunto, perché no, per le prossime divagazioni che facciamo insieme. E allora, intanto tocca a me, però cerchiamo questa volta di cambiare il giro, cioè di farne una in più se il tempo ce lo consente. Sì, l'ultima volta ci siamo lasciate per la playlist numero 3 con Ella Fitzgerald, con un pezzo bellissimo, A Little Dream of Me, che appunto ci hai anche raccontata che era uno dei tuoi pezzi preferiti, uno di quelli che ti mette di buon umore, anche se Ella, insomma, con la sua voce in generale, quella sempre, lei basta che canta ti mette di buon umore, cambia il mood. Yes. E pensando appunto, riflettendo su Ella, oddio, veramente ci si apre davanti un mondo sterminato di connessioni, in realtà, di pezzi rifatti da lei poi rifatte da altri, insomma, sarebbe veramente è vastissima la possibilità. Io mi sono concentrata su un suo disco in collaborazione con Armstrong. Però fermati. Dimmi. Dici chi è. Hai ragione, prima dobbiamo dire chi è. Dove sono arrivata? In effetti sono arrivata a Nina Simone. Che non è lontanissima da Ella, no. Però insomma ci arrivo per una via non diretta. Mi veniva in mente, pensando a Ella, un disco che ho amato moltissimo, che è Porgy and Bess, che è appunto la versione cantata da lei, da Armstrong, dell'opera, diciamo, della American Folk Opera, insomma, come si chiamava questo genere, scritta da Gershwin e con i testi scritti da Ira Gershwin Gershwin, appunto il fratello di George Gershwin, e che insomma nella loro interpretazione veramente è meravigliosa. Quest'opera è una diciamo di quelle più famose, però insomma di un genere musicale che appunto si chiama opera folk, che in qualche modo soprattutto in una parte della storia della musica americana, quindi tra gli anni 30 e gli anni 50, sostanzialmente ha appassionato il pubblico e in qualche modo dava la possibilità di raccontare le storie musicandole, però appunto raccontando delle storie che non sono proprio vere, come si può dire, i testi in qualche modo erano lontani da quella che normalmente a cui siamo abituati è l'opera, ma in realtà appunto erano più vicini alle storie vere, concrete, come quella di Porgy and Bess, anche se è sempre stata molto difficile, criticata quest'opera. E pensando a questo tipo di opere folk, mi veniva in mente insomma l'opera di altri due geni insomma della musica e del teatro, che era appunto l'opera da tre soldi, di insomma sul libretto di testi di Brecht, i testi tedeschi ovviamente, e musica di Kurt Weill. Insomma, anche lì Kurt Weill è insomma uno dei miei autori preferiti, e tra l'altro con dei pezzi scritti per parti di donne bellissimi, tra cui appunto uno dei più famosi pezzi dell'opera da tre soldi, che è Pirate Jenny. Pirate Jenny, anche lì ci sono bellissime versioni, potrei mettere quella di Lotte Lenya, insomma potrei mettere veramente anche Marianne Faithfull ha fatto una versione di questo pezzo, però io ho preferito, scelto tra tutti quello fatto da Nina Simone, che in qualche modo ha dato a questo personaggio, Pirate Jenny, che era appunto un personaggio, comunque una donna che si vendica del disprezzo e del immaginariamente, ovviamente immagina di vendicarsi del disprezzo delle persone della sua vita. Con l'arrivo di una nave pirata che praticamente stermina, uccide tutte le persone che le avevano fatto del male, tutto il paese insomma dove viveva, ha un suo comando, e Pirate Jenny nella versione di Nina Simone diventa diciamo una specie di eroina e di diciamo vendicatrice di colore, e la nave appunto che arriva di pirati è una nave che in qualche modo diciamo vendica quelle che sono stati i soprusi e le angherie sopportati dal suo popolo. Quindi insomma ci ascoltiamo la versione di Nina Simone live, che è appunto Pirate Jenny. You people can watch while I'm scrubbing these floors, and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town, in this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you couldn't ever guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night, and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing, and you say, "What's she got to grin?" I'll tell you. There's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in. You gentlemen can say, "Hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here." You toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, 'cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night there's a scream in the night, and you say, "Who's that kicking up a row?" And you see me kinda staring out the window, and you say, "What's she got to stare at now?" I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turn turns around in the harbor, shooting guns from her bow. Now, you gentlemen can wipe off that smile off your face, 'cause every building in town is a flat one. This whole frickin' place will be down to the ground. Only this cheap hotel standing up safe and sound. And you yell, why do they spare that one? Yes, that's what you say. Why do they spare that one? All the night through, through the noise and to-do, you wonder who is that person that lives up there. And you see me stepping out in the morning, looking nice with a ribbon in my hair. And the ship, the black freighter, runs a flag up its masthead and a cheer rings the air. High noontime, the dock is a-swarming with men coming out from the ghostly freighter. And they're moving in the shadows where no one can see. And they're chaining up people and they're bringing them to me, asking me, kill them now or later. Asking me, kill them now or later. Noon by the clock, and so still at the dock, you can hear foghorn miles away. And in that quiet of death, I'll say, right now, right now, and they pile up the bodies, and I'll say, learn ya. And the ship, the black freighter, disappears out to sea. And on it is me. L'ho lasciata fino alla fine, era Nina Simone, live, si sentiva. 64, sì. 1964. Allora, io invece propongo, un pezzo di Joan S. Police Woman. Quindi facciamo anche un salto temporale nuovamente. E in realtà anche Nina Simone, come tutte insomma queste grandi jazziste blues di quegli anni, che non solo molte di loro non scrivevano proprio, erano solo interpreti di grandissimi autori e li hanno resi grandi le loro interpretazioni, cioè da sottolineare, certo. E autrici, come abbiamo scoperto. E autrici, esatto, c'erano tantissime autrici. E E chiaramente Nina Simone comunque ha un repertorio vastissimo, per cui ho iniziato a curiosare che cosa avesse cantato lei di qualche d'un'altra e chi avesse cantato invece qualche altra canzone sua. E facendo questo piccolo giochetto sono arrivata a Janis Policewoman. In realtà io stavo prendendo un'altra strada ancora. Eccola. Esatto, che non ho preso, però questa è la strada che ho preso. Ma quella che non ho preso era, e che un po' mi dispiace, era Joni Mitchell. Eccola, che torna sempre. Joni torna sempre, ha appena fatto 70 anni, settimana scorsa, giovedì scorso ha fatto 70 anni e anche lei c'era arrivata, tra l'altro per una via particolarissima, c'è cioè una chart di una certa musicista che si chiama Lisa Henningen, mm-hmm. e che diceva quali erano le sue canzoni, perché io ho accostato Nina Simone a Joni Mitchell e ovviamente i magici motori di ricerca ti tirano fuori delle cose assurde facendo questi giochetti che una volta si facevano a mano, ed era venuta fuori questa classifica sua, questa chart, perché tanto poi uno gioca anche con questo gioco delle classifiche appunto, e dove lei metteva sia una canzone di Nina Simone che è una canzone di Joni Mitchell. La canzone di Nina Simone era la sua prima memoria musicale, mentre la canzone la canzone di Joni Mitchell era la sua prima memoria musicale, mentre la canzone di Nina Simone era insomma la musica che la elevava il suo spirito quando si sentiva giù, perché erano a tema le canzoni della chart, cioè perché questa, perché quest'altra. E un'altra cosa che ho trovato interessante accostando Joni Mitchell a Nina Simone era che Joni Mitchell ha fatto anche un balletto di recente, comunque ha messo, non che ha fatto lei un balletto, però ha musicato, le mancava solo quello peraltro, cioè, ha musicato un balletto e dice di aver incontrato Nina Simone dentro un supermercato, comunque in un posto pubblico, che l'ha ringraziata dandole un bacio sulla fronte perché le era piaciuto. Che meraviglia! Che meraviglia! Però non ho seguito questa strada, ma avrei tanto voluto per quello, perché avrei voluto molto mettere Joni Mitchell, ma tanto so che nelle nostre chart prima o poi troveremo tante connessioni per arrivare a lei. E quindi invece ho scelto di cambiare tempo e di arrivare appunto a qualcosa di più recente, mettendo Janis Policewoman, che ha appunto cantato una canzone di Nina Simone, ma in realtà noi di suo ascoltiamo una canzone che viene dal suo secondo disco, che ed era insomma una delle track di quelle, insomma, dei singoli poi in uscita, era The Magic, e quindi ci ascoltiamo Janis Policewoman. This is me that you're talking to, and anything I say I have said before, one wouldn't be enough, and something is, and now I find that I'm face to face with none other than me. I have got the mirror up against the marquee, and all it reads is, I am fine, I am divine, going on behind the sign. But the shadow inside of me is begging for directions to Elicit City, oh Elicit City. But I wanna do better than survive this life, cause it is a dream. I wonder if the wild animals living in me, will they ever find freedom? Joan saltava, lo diciamo, perché sì, ogni tanto saltava, era... Vabbè, succede con gli MP3, purtroppo. Poi ve la faremo risentire durante la giornata, insomma, senza salti. Vabbè, questa la mia connessione che arriva, diciamo, alle Wild Flag, quindi al super gruppo, diciamo, fatto dalle super donne. super. Che, insomma, da 3 anni ci, almeno a me, allieta le orecchie, visto che adoro tutte le componenti della band. Insomma, mi dà, in realtà, Johannes Polispoman mi ha dato la possibilità poi di far ascoltare, che volevo far ascoltare le Wild Flag. Insomma, dare una botta rock alla nostra chart. E in realtà la connessione è abbastanza semplice, intanto perché anche Joan Vassar, Joan is a Police Woman, ha suonato in un sacco di band, ha lavorato con tantissimi musicisti e musiciste, per cui, insomma, essendo una brava musicista e anche una musicista che ha avuto una educazione classica, quindi, insomma, che suona diversi strumenti, ha avuto la possibilità di collaborare con tanti artisti e artiste. E all'inizio della sua carriera, in particolare, c'erano diverse band quando frequentava la Boston University Symphony, credo sia orchestra, dove lei diciamo suonava, e studiando lì a Boston, dove c'è appunto una scuola di musica tra le più famose al mondo, partecipava a diverse band locali, tra cui una che si chiamava Hot Tricks, con una tale Mary Timony, o Timony, sinceramente non so esattamente come si pronuncia, anche se dovrebbe essere Timony, la quale è a sua volta una musicista, anche lei con una diciamo educazione classica straordinaria, ha fatto tantissime cose, molti lavori da sola, ma insomma ha suonato in tante band con base a Washington durante gli anni 90, insomma Autoclave per citarne una. E a un certo punto, qualche anno fa, si è ritrovata tra le varie collaborazioni a incontrarsi con Carrie Brownstein e Janet Weiss delle ex Slater Kinney, e hanno pensato bene, dice: ma siamo brave, siamo fighe, sappiamo fare praticamente tutto. Appunto, abbiamo adesso anche Rebecca Cole che suona le tastiere, cantiamo tutte, facciamo un super gruppo, facciamo una band. E quindi, insomma, hanno messo su le Wild Flag, che sono state praticamente in tour, in giro per l'America, ma anche in Europa, praticamente da quando è uscito il loro album. Sono grandiose, io le adoro, e insomma vi faccio ascoltare questo loro pezzo, questa loro traccia dell'album appunto omonimo Wild Flag, che si intitola Short Version. vero rock. Sicuramente se qualcuno stava un attimino appisolata, vi abbiamo svegliata. E queste quarantenni picchiano, gliela ammollano ancora. Gliela ammollano. Insomma, questa super band che appunto viene da altre band che hanno fatto anche la storia del Riot Movement come le Slater Kinney, e tra queste insomma suonatrici, cioè tra loro c'era la batterista che si chiama Janet Weiss, che è il mio punto per arrivare alla artista che vi propongo, che è Petra Haden, con Goldfinger Main Title, anzi scusate il mio inglese ogni tanto arranca. E Janet Weiss ha suonato pure lei appunto con le serie, ma non solo, perché loro non fanno mai una cosa intanto sola. Intanto è una batterista strepitosa. Sì, strepitosa. Esatto. Si sentiva pure. E ha formato una band che è stata attiva quasi 20 anni, che si chiamano con un aggettivo quasi i quasi, che non so in americano come venga detto, perché immagino sia un po' più complessa come pronuncia, però che era un duo, un trio. Nel trio c'era appunto una polistrumentista che si chiamava Joanna, che si chiama Joanna Bolme. Dal 2007 al 2011 ha suonato appunto nei quasi con Janet Weiss. E lei è una polistrumentista, il suo primo strumento comunque è il basso, ma ha suonato anche per Steven Malkmus, per esempio. E oltre a suonare, non Steven si... Malkmus, dice chi è? Chi è? Pavement. Vabbè, diciamolo, è vero, hai ragione. Un altro gruppo di quegli indie del rock, insomma, appunto indipendente, super stra conosciuto e famoso. Però è vero, non tutti possono sapere tutto. E non solo, insomma, lei è polistrumentista, ma come spesso abbiamo visto, ed è una storia anche quasi misconosciuta, è ingegnere del suono anche lei, e si è occupata di mixare diversi dischi e album. Ecco. Diciamole le cose. E allora diciamolo. E tra i dischi che ha mixato c'è il primo disco appunto di Petra Haden, Bella Neuro, che lei ha inciso insieme a Miss Moore Gutride. Lei è una violinista invece. È una violinista, una cantante statunitense, anche lei ha fatto parte di diversi gruppi, ha registrato con Beck, ha registrato con i Green Day, con i Wizard, con Victoria Williams. È la figlia di un bassista jazz, Charlie Haden. Insieme alle sorelle ha fatto anche un trio, anche sono tutti musicisti, ovviamente. C'è questa fortuna ogni tanto che nasci con alcune famiglie dove tutti suonano, e per cui poi alla fine suoni pure te. Meglio di nascere una famiglia di farmacisti, queste robe qua, insomma, di nascere una famiglia di musicisti. Ah beh, sì, sì. Ognuno ha le sue fortune. Un'eredità più bella, secondo sì, me. Dal nostro punto di vista sicuramente è un'eredità più bella. Infatti loro facevano questo trio, The Hayden Triplets, e comunque lei è molto particolare, tanto che quest'ultimo disco che ha inciso è un disco dove lei riarrangia solo voce e strumenti alcuni brani celebri delle colonne sonore. Mm-hmm. Che ognuno ha le sue idee, così ogni tanto, lo sapete, gli artisti insomma non è che si possono tanto governare. Quindi Goldfinger è proprio quello. È proprio quella. E adesso voi sentite insomma che cosa ne ha rifatto di quel tema famosissimo di questo film appunto di 007. Golden words he will pour in your ear. but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Eccoci. Eccoci qua, ci ha sorpreso con questo finale. Esatto, no, stavamo curiosando in realtà su chi avesse poi cantato poi nel film. Io mi ricordavo Tina Turner, ma stavamo cercando appunto di capire questa cosa. Più che altro perché c'era questa voce che io non rifaccio per non far piovere, che già piove. E ti veniva la voce di Tina Turner. Io mi sono legata per arrivare al, diciamo, al prossimo aggancio di questa chart, che è una band che si chiama Silver Sun Pickups, con la sorella, diciamo, quella meno famosa delle tre, che è appunto Tanya Hayden, che diciamo in qualche modo appunto sì, ha un po' lavorato anche con le due sorelle eccetera eccetera, però un po' più distante in qualche modo. Tra l'altro le due sorelle Rachel e Petra hanno fatto parte, insomma, erano due dei quattro componenti insieme a Anna Waronker e Toni Maxwell di un altro punk power pop band, insomma, abbastanza storica, punk power pop band degli anni 90, che si chiamava Dead Dog. Esatto, quindi se non ve le ricordate, loro stavano anche lì, eccole, rimischiate con le carte, diversa, diciamo, però fondamentalmente che era una band molto molto carina. Ma Tanya, insomma, quella delle tre che non ha trovato posto in queste loro varie commissioni, però ha fatto molte cose anche da parte sua, anche se, diciamo, è stata più forse la parte un po' più jazz classica rispetto alle altre sorelle, anche se ha fatto delle collaborazioni con una bassista che a me piace molto, che si chiama Nikki Monninger. E Nikki Monninger è appunto la bassista e voce anche insieme a Brian Obert di questa band nata nel 2005, che è ancora in attività, quindi insomma potete cercarla, una band indie rock americana che insomma ha base a Los Angeles e indie rock, dream pop, shoegaze, non le dico tutte le varie showgaze. Tutte le varie, diciamo, dovete studiare, ascoltatrice, che si danno a questo tipo di insomma la musica che fanno, che è molto bella, molto piacevole, molto divertente. E insomma ho pensato di farvi ascoltare, tra l'altro, il basso, poi le bassiste. Oggi ci sono diverse bassiste nella nostra chat, quindi insomma in qualche modo questa roba poi ci ha preso, gira che rigira, esatto, c'è sempre un filo conduttore poi di queste chart non voluto, perché voi dovete sapere che noi giochiamo al buio come gli appuntamenti al buio, nel senso che durante i giorni prima delle trasmissioni ci mandiamo rispettivamente solo l'autrice, cioè e la canzone. I perché li scopriamo come voi li scoprite ascoltandoci, cioè qui in diretta. Prima nessuna di noi due sa come sia arrivata da una artista all'altra, e questo è un po' il gioco che ci rende la trasmissione divertente da noi a farla ai microfoni, e che ve la potrebbe rendere divertente a voi. Ve lo ricordiamo, giocate con noi. The Chart, c'è il form sul nostro blog womenchart.wordpress.com. mandatecene una, così prima di Natale ne mandiamo una vostra, su. ve la spariamo. Quindi intanto ci sentiamo Nikki Monninger al basso e alla voce in questo pezzo di Silver Sun Pickups che si intitola Dots and Ashes. With me, degree, heat filling up my cheeks. Not exactly what you think. Questi erano i Silver Sun Pickups. Siete all'ascolto di The Chart, siete martedì autogestito da femministe e lesbiche, sono quasi le 18, abbiamo ancora 15 minuti per andare avanti e finire il nostro viaggio odierno. Poi ci sarà Attimi Sfatti, sempre se volete chiamarci 06 49 17 50, diamo i nostri contatti, e se volete scriverci mfla@noblogs.org. Detto questo, io sono arrivata invece, quello che vi farò ascoltare, che ascolteremo tutte, sarà un pezzo di Carole Kane. Ora voi potreste dire: ma chi è? Ma chi è sta Carole Kane? Allora, quando io ho visto appunto via SMS la canzone che mi aveva mandato Odora, ho detto: ancora una bassista, perché esatto, nel gruppo appunto lei è l'unica donna, mm-hmm, tra l'altro. e ho detto: certo che ce ne sono dei bassisti in giro. E allora anche lì ho cominciato a girovagare e a cercare le chart, sempre le 10 bassiste più importanti e famose della storia della musica rock. E quando sono capitata sul sito della Gibson, nota e stranota marca di chitarre e appunto di bassi chitarre, perché gli americani appunto non dicono basso, dicono chitarra e basso chitarra, sono incappata in questa classifica. Ma la cosa divertente è stata che, leggendo vabbè la lista delle bassiste eccetera, che adesso eccola qua, la sto ricercando per voi, che da Melissa Auf der Maur, che è la bassista delle Hall, nonché la bassista poi degli Smashing Pumpkins, a Kim Deal, l'abbiamo sentita anche a The Chart, a bassista dei Pixies, nonché delle Breeders, poi ci sta Nicole Fiorentino, sempre Veruca Salt, Smashing Pumpkins, insomma queste, King Gordon, e abbiamo chiuso, diciamo. Abbiamo chiuso, ma siamo solo a 5. In realtà Kira Rossler, la bassista dei Black Flag, eccetera eccetera eccetera. Insomma, in questa classifica fatta dalle Gibson, sotto nei commenti, perché poi la cosa bellissima delle chart è che sono soggettive, pure quelle di una grandissima quale può essere la Gibson, no, sempre qualcuno le ha scritte, e nell'essere soggettive nei commenti c'erano tutti quanti che ovviamente citavano bassiste che non stavano nell'elenco delle 10, certo, nella chart delle 10 più brave e più importanti. E qualcuno, in un modo molto divertente, in inglese si chiedeva: ma Carole Kay, dov'è? Dove sta? Come avete potuto dimenticarla? E giustamente, quindi, io mi sono incuriosita, sono andata a vedere chi fosse. E sono rimasta, perché è una musicista che non avete idea, cioè, nel senso, è veramente una pietra della storia della musica, comunque sì, anche americana, pop, quanto volete. Ve ne cito una: sapete dove ha suonato il basso? In una delle canzoni che ci piace di più anche qui al martedì, che è la canzone di Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, il basso, quello che vi fa muovere alle feste quando la volete ballare, è suo. Ma non solo lì, ha suonato in Pet Sounds dei Beach Boys, una carriera infinita. Pare che abbia inciso qualcosa come 10.000 brani e che abbia una carriera di 55 anni. Quindi ancora attiva. Ancora attiva. Lei insegna adesso soprattutto. Lei insegna, infatti nel 69 ha scritto il suo primo libro, tra l'altro su appunto il tutorial su come suonare il basso, cioè le lezioni famose, magari l'avete anche con qualcuna di voi che si è dilettata, magari l'ha pure comprato e non lo sa. E insomma, sì, how to play the electric bass, esattamente. E non solo, ha suonato, pensate, la chitarra a 12 corde Freak Out, lo so. Di Frank Zappa. Comunque stiamo parlando di dischi che fanno parte della storia del rock, cioè della musica. E poi ha suonato una 12 corde, una chitarra proprio così, che suonano tutti i giorni. Sì, ed è strano che comunque nell'elenco appunto presente sul sito della Gibson, visto che lei ha sempre usato, continua a usare sia chitarre sia bassi, appunto di vari modelli, ovviamente Vanez, secondo il suono che vuole, però insomma tutte di questa casa, anche amplificatori, quindi In realtà, per esempio, pare che lei suoni due Fender, tre Fender sicuramente, un Gibson, un basso Gibson, è un po' una secondo me è per quello che non ce l'hanno messo nella classifica della Gibson. Proprio hanno rosicato come al solito, quella cosa molto, molto internazionale che avviene a tutte le latitudini, la rosicata. Siccome ha tre bassi Fender e un solo basso Gibson, ho detto no, te non ti mettiamo. Comunque, però è nella nostra classifica del cuore. Certo, e comunque nella chart di oggi sicuramente, Carole Kay. E chiaramente lei, più che incidere dischi suoi, ha appunto, come avete visto, inciso tantissime linee di basso in tantissimi brani e in tantissimi dischi di altri artisti. È difficile che un bassista o una bassista comunque incidano da sole un album, almeno che sì, insomma, sono coautrici tipo Kim D, cioè come Kim Gordon, piuttosto che Kim Deal nei Pixies eccetera. Però l'ha fatto un disco suo, Picking Up of the String, e da quel disco, dove lei raccoglie le sue performance più belle al basso, anche lì non sono brani scritti da lei in realtà. Per esempio quello che ascoltiamo è scritto da un bassista jazzista, e insomma ascoltiamo More and Poke Stomp e viva le bassiste. Lasciamo qua di sottofondo mentre sfumano gli ultimi 20 secondi di questo bellissimo pezzo di Carole Kaye, e arriviamo a uno stacco abbastanza importante con il nuovo punto di questa chart di oggi, che è appunto Robots in Disguise, che è appunto un duo elettropunk. Come arrivo a Robots in Disguise? In realtà seguendo un po' anche la tua linea, cioè la linea del basso. Intanto volevo ricordare rispetto a Carole Kaye che lei appunto, come dicevi tu, ha fatto parte di questo gruppo che poi è stato soprannominato The Wrecking Crew, che sarebbe la band, diciamo il gruppo della demolizione, da uno dei batteristi che faceva parte di questa di questo gruppo di musicisti da studio, fondamentalmente, perché negli anni, diciamo a metà degli anni 60, era successa una cosa un po' particolare, cioè che diciamo gli studi di registrazione, che prima non erano concentrati a Los Angeles, si spostano su quella costa, e quindi tutti quanti, appunto i Beach Boys, come citavi tu, Nancy Sinatra, Frank Sinatra, Mamas and Papas, eccetera eccetera, si spostarono su quella costa e utilizzarono gli studios che c'erano lì per registrare, e quindi chiamavano i musicisti. Ed era in realtà Carol era l'unica donna, una bassista, ma anche l'unica donna di questo gruppo nutrito di musicisti. Erano una sessantina di musicisti che venivano chiamati la sera per la mattina, li chiamavano al telefono e dicevano: guarda, domani si registra l'album dei Beach Boys, e ci sei? Certo che ci sono. E quindi si andava e si stava tipo 12 ore, 16 ore in sala, finché non si finiva. Quindi insomma una roba, anche un lavoro, straordinario, nel senso estenuante, difficile, molto molto importante. E su questo crew, una cosa che volevo aggiungere era che sta per uscire un documentario girato dal figlio di uno, insomma, di questi musicisti, che in realtà a cui Carol ha partecipato con un'intervista, che però sul suo sito ha recentemente disconosciuto, perché poi evidentemente deve aver visto alcune delle immagini, anche insomma un po' dove va a parare questo documentario, e dice proprio a chiare lettere: io, mi hanno estorto questa intervista per questo documentario, ma in realtà non dipinge quello che eravamo, i professionisti che eravamo, insomma, e quindi non sono felice di questo racconto. Tra i bassi suonati da Carol c'è un basso che è il Precision Bass, che è un bass, che è appunto un basso della Fender, come dicevi tu prima, uno di quelli che l'hanno fatto uscire dalla classifica, e che è anche lo stesso basso che suona Sue Denim, che è appunto la cantante e bassista di questo duo electropunk inglese, che si chiama Robots in Disguise. Loro ci sono, io le faccio sentire ogni tanto, sono attive dal 2000, hanno fatto un po' di album, uno dei loro singoli più famosi, che forse ve ne faranno ricordare, che risale al 2008, si chiama The Sex Has Made Me Stupid, non so se ve la ricordate, insomma, che ebbe un particolare successo, ma a me piace in particolare questo pezzo che si chiama DIY. Loro sono Robots in Disguise. Don't break my amateur art. Ne te moque pas, te fous pas, te fous pas, casse pas, ne plaisant pas. Fed up Eccoci di nuovo in voce, perché sta per incombere attimi misfatti. Noi abbiamo quest'ora in cui tra chiacchiere ce la tiriamo sempre fino all'ultimo minuto. E vi ricordo che trovate il podcast e tutte le connessioni sul nostro blog womenchart.wordpress.com. Trovate anche il podcast sul blog dell'MFLA, mfla.noblogs.org. Oggi pure abbiamo fatto un viaggio straordinario, dobbiamo dire che abbiamo trovato tantissime bassiste in questa strada e in realtà chiudiamo con una cosa molto più leggera, perché io dalle Robots in Disguise sono arrivata a un'artista australiana che però è di Staz a Berlino, che si chiama Kat Frankie. Lei è molto bella. Che non devo dire che c'entra niente, però ho visto il video mentre cercavo una canzone da proporvi, che è, tra l'altro, la canzone che vi farò ascoltare, che è Too Young. Come ci sono arrivata? In realtà con una sciocchezza. Sono andata sul sito delle Robots in Disguise e ho visto che loro, l'ultima loro apparizione live risaliva al 2012. Mm-hmm. E l'ultima apparizione live era un festival che si chiama The Hell Beach Festival, una cosa del genere, organizzato in Germania. È un festival di musica per donne, solo per donne, quindi dove andremo l'anno prossimo. Dove andremo, esatto, l'anno prossimo. Io non pensavo neanche al mare in Germania, in realtà, scusate, uno pensa sempre alla neve, l'inverno, non so, il freddo, la birra al massimo. The Hell Beach Festival, a quanto pare in Germania lo organizzano da ben 3 anni ed è già online l'edizione dell'anno prossimo, il 2014, quindi la potete andare a cercare. Ed è al nord della Germania, appunto sul mare. Il motto è Girls Love Music, Fun e Holidays. Perfetto. Esatto. Possiamo proprio prenotarci. Per noi. Insomma, esattamente. E nella lista, appunto, quell'estate suonarono, nel 2012 suonarono le Robot, nella stessa appunto anno del festival suonò anche lei, appunto, naturalizzata in Germania. Naturalizzata no, però che in questi anni vive in Germania dal 2004. In Germania è nata, sì, cioè è nata in Australia. Alla sua prima apparizione live è stata a Sydney, poi il suo primo EP. Quando ha fatto il suo primo EP ha detto: ok, ce la posso fare, ce la devo fare, voglio. Ha detto: dove vado? In Germania. E quindi è arrivata in Germania, a Berlino, e tra l'altro ci sta così bene che nel 2010 ha pure fondato la sua etichetta, la Zellefan. Io ho scoperto di avere un disco prodotto dalla sua etichetta a casa. Scopritelo anche voi. Scopritelo anche voi. Andate a controllare. No, ne hanno fatti 7-8, è piccolissima l'etichetta. È uscito il suo ultimo disco nel 2012. Lei è in giro, in realtà, ancora, probabilmente a sprazzi, non a sprazzi, a promuoverlo, The Dance of a Stranger Heart. E noi ci ascoltiamo questa canzone che si chiama Too Young. E ci rivediamo fra 15 giorni, sì. Grazie per essere state con noi, rimanete col martedì autogestito da femministe e lesbiche. www.womenchart.wordpress.com. Ciao. Ciao. No, ve lo voglio dire, questi suoni che sentite le sta facendo è lei che ha battuto le mani sul microfono e le ha registrate in loop. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.